Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi. Oggi abbiamo voluto dedicare la puntata della Costa Concordia in questo straordinaria, importante operazione di rotazione della nave che, come sapete, ormai da molti mesi è adagiata all'isola del Giglio dopo la terribile notte con molti morti, feriti, polemiche, processi, che inchieste che continueranno. Noi siamo subito collegati con Raffaella Calanda, che sta per noi all'isola del Giglio. Buongiorno Raffaella. Buongiorno Daniele, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, vi ricordo innanzitutto al 349-238-6666, se state vedendo anche voi le immagini dalla televisione, state seguendo anche dai vari mass media questa operazione, vogliamo sapere da voi cosa ne pensate. Mi pare una grande operazione dal punto di vista tecnico. Poco fa Gabriele ha detto la partita però non è ancora finita, perché problemi possono venire fuori anche al termine dell'operazione. Allora passiamo un po' al punto alle 13:36 di questa operazione che è stata guidata dal capo della protezione civile Franco Gabrielli e che è naturalmente coadiuvato da tecnici tra i più importanti del nostro paese. E non solo del nostro paese, aggiungerei Daniele, perché in realtà il capo proprio massimo di questa operazione, colui che ha dato il via all'operazione questa mattina, Nick Sloan, appunto come si capisce dal cognome, è un inglese ed è quello che dalla chiatta polluce sta coordinando tutta questa complessa operazione che, come non si stancano mai di ripetere, non ha precedenti. In realtà l'unico precedente c'è stato nella Seconda Guerra Mondiale a Pearl Harbor. In questo momento lo stato dei fatti dicono che la nave ha terminato la prima delicata fase, che era quella di distacco dallo scoglio dove della punta della Gabbianara, dove appunto è adagiata per l'esattezza da 20 mesi, e in questo momento si sta proseguendo quindi con la rotazione, che è ferma ai 3 gradi con 60.000 tonnellate di tiro dei mortaretti idraulici, che sono questa sorta di enormi corde, per semplificare, che devono appunto tirar su la nave. Si comincia infatti qua dal porto del Giglio già a vedere anche ad occhio nudo la fascia di ruggine e alghe che riemerge dall'acqua, mentre contemporaneamente i cassettoni che sono stati poggiati sul lato esterno della Concordia mano a mano progressivamente entrano dentro l'acqua, ed è dal bilanciamento di questi due movimenti che si misura, diciamo, lo spostamento della nave. Un'operazione complicata, cominciata con 3 ore di ritardo, come vi abbiamo raccontato, per via di un temporale forte di questa notte e che aveva impedito tutte le fasi iniziali. Quindi in questo momento vediamo una Concordia che è circondata da tutte queste 8 chiatte, dagli altri 26 mezzi navali e da tutto questo enorme staff di 500 uomini di 26 nazionalità che stanno coordinando questo intervento, che ha molti rischi, e per questo il commissario Gabrielli diceva la partita non è ancora chiusa, perché la preoccupazione principale è quella dell'impatto ambientale. Fino a questo momento non ci sono effetti negativi sull'acqua del mare del Giglio, sono stati fatti degli esami, ma ecco, ci saranno delle fasi successive nelle quali i liquidi che ancora sono contenuti all'interno della Concordia potrebbero fuoriuscire, anche se ci sono stati messi 2 enormi giri di panne di contenimento che servono proprio a fare da assorbenti nel caso in cui questi liquidi fuoriuscissero dalla pancia della Concordia, che contiene anche, ricordiamolo, anche i corpi di 2 dispersi delle 32 certo. vittime. Intanto sono arrivati un po' di messaggi da chi ci corregge, dice Martinetti non Mortaretti, tra chi mi chiede se la Costa è della statunitense Carnival, ed è vero, perché proprio la Carnival Cruise acquistò nel 1993 quando si era trasformata in Carnival Corporation la genovese Costa Crociere, già nel 93, poi nel 1997. C'è chi chiede e si domanda se la nave Concordia è un monumento all'idiozia umana, e chi invece come Francesco dice che è una grande occasione anche per mettere in evidenza le capacità ingegneristiche italiane, e si spera naturalmente di fare una bella figura. Allora, il tempo com'è lì? Lo vediamo abbastanza buono? Ma sì, dopo il temporale sicuramente sarà una mattinata splendida. In questo momento ci sono in realtà delle nubi abbastanza minacciose dietro la montagna. Speriamo, e questo speriamo un po' preoccupa. Bene, ovviamente la stanchezza, per cui mi scuso dell'errore fatto. Vabbè, niente. Per una sveglia alle I nostri ascoltatori sono implacabili. No, ecco, i tempi invece quali sono? Si è parlato di 12 ore, quindi è probabile che intorno alle 20:21 questa operazione sia finita. Alle 21. Se tutto va bene, alle 21 dovrebbe esserci, diciamo, la fase finale della nave, e quindi a quel punto poi potremo incontrare anche, spero, lo stesso Sloan, che è a mare, e parlare con lui per capire un po' il racconto di questa lunga giornata. Quindi se i tempi rispettano il calendario dato, intorno alle 21 sapremo darvi il quadro, diciamo, definitivo di quest'inizio di un lungo addio della Concordia al Giglio, che però, ricordiamolo, resterà ancora qui almeno fino alla primavera del 2014, perché poi ci sarà tutta una fase di stabilizzazione. In questo momento nessuno degli operai, nessuno dei tecnici è a bordo della Concordia, perché sarebbe troppo pericoloso. Soltanto dopo, quindi nei prossimi giorni, potranno salire a bordo per rendersi conto della situazione, e solo quando sarà stabilizzata si deciderà dove portarla per la demolizione. E qui c'è una contesa tra più porti italiani su dove potrà essere, diciamo, smantellata la Concordia, ma si sa, pare che sia in pole position, diciamo così, piombino. Va bene, naturalmente grazie a Raffaella Calandra che ci ha raccontato fino adesso, e continuerà a farlo anche per tutta la giornata. Dei nostri ascoltatori c'è chi, ma questo è anche abbastanza facile, dire che la Concordia è un po' la metafora perfetta dell'Italia. Scrive Raldo, un relitto tenuto in piedi con i cavi, ma pur sempre un relitto senza alcuna speranza. C'è chi senza firmare si chiede perché Bianchessi, che si chiama invece Biacchessi, la risposta è che se ne faccia una ragione: la società di recupero è olandese, è vero. Come abbiamo detto, ci sono tecnici italiani straordinari, grandi ingegneri, ma tutto è in mano anche a tecnici stranieri e internazionali, caratura internazionale, e questa è una delle operazioni più grandi, diceva giustamente Raffaella Calandra dal Giglio, una delle operazioni più importanti fatte in Europa e forse tra le più importanti fatte e realizzate nel mondo. Un'altra ascoltatrice dice: Marina da Milano, non potendo lasciare la Concordia dove si è arenata in assenza di alternative nella modalità della rimozione, solo un pensiero: quanti danni può causare la stupidità di persone mediocre che, nonostante le colpe acclarate, continuano a trovare scusanti ai propri inqualificabili comportamenti. Non posso fare a meno, e concordo con Tina, di pensare alle vittime e ai loro familiari, in particolare alle famiglie delle due ultime vittime ancora non trovate, perché di questo si parla poco, delle vittime e dei familiari che ancora continuano a chiedere verità e giustizia. Grazie a tutti, ci risentiamo domani, come sempre, alle 13:30.